Avrete riconosciuto anche voi, suppongo, il tono con cui il presidente Formigoni ha spiegato giorni fa ai cittadini lombardi come fosse soprattutto compito loro debellare lo smog con quelli che lui ha definito milioni di gesti virtuosi. Sapete, non superare i 22 gradi di riscaldamento, andare a piedi e non in auto per i percorsi sotto i 2, 3, anche 5 chilometri, spegnere il motore ai semafori, staccare la spina della TV quando la si spegne, tenersi alla larga dai caminetti, non eccedere con le pizzerie, perché la gente non ha idea di quanto siano inquinanti i fuochi di legna. Insomma, una serie di paterni consigli, ciascuno dei quali celava un accorato rimprovero per quei conterranei così improvvidi e freddolosi, così alieni dal podismo su strada, così avidi di pizza e calzoni, tanto indifferenti al bene comune da lasciare accese per tutta la notte i LED degli elettrodomestici, senza pensare alla quantità di energia che ogni lucina rosso verde può consumare. Era in effetti un tono inconfondibile, e lo si poteva identificare anche senza ascoltare direttamente la voce che impartiva queste massime. Era il tono del medico quando ci avvisa che le nostre magagne, grandi o piccole, ce le siamo volute noi eccedendo nel cibo e nelle bevande, o rifiutandoci ostinatamente di fare del moto. Quello del professore che spiega che se i suoi alunni dopo 12 anni di scuola dell'obbligo e 5 di superiori non sanno distinguere un sonetto da un motore diesel, dipende tutto dalla loro scarsa applicazione allo studio. Dell'assessore che si ostina a ripetere che se i rifugiati dormono per strada è perché si rifiutano con pervicacia d'accettare le generose proposte del suo ufficio. Il tono, insomma, di chi, grazie al potere di cui è volta in volta investito, trasforma in colpevoli i malati, gli ignoranti e i bisognosi. È prerogativa del potere, di fatto, distinguere chi è colpevole di qualcosa da chi non lo è. E se il Pio Formigoni, se non altro, può invocare a sostegno dei propri convincimenti in merito il racconto biblico della cacciata dall'Eden, per il quale appunto la presenza del male nel mondo si spiega con una colpa originaria di chi lo subisce, è sempre un po' strano ritrovare il concetto in contesti che in teoria dovrebbero essere un poco più laici del suo. Naturalmente le cose non sono così semplici, il problema è che in quelle imputazioni c'è almeno una parte di verità. È vero, per esempio, che la salute dipende molto dallo stile di vita del soggetto, che a frequentare le scuole senza studiare non se ne ricava un granché, e che nelle trattative politiche l'intransigenza sui propri obiettivi, per quanto sacrosanti, può essere controproducente. È vero, in sostanza, che in molti casi il disagio e la sofferenza possono essere ricondotti anche a taluni comportamenti di chi ne è afflitto, che sono, come si dice alla spiccia, colpa sua. E visto che tutti più o meno ne siamo consapevoli, in relazione agli altri e persino talvolta per quanto riguarda noi stessi, in ciascuno di noi può fiorare la tentazione di dar ragione al Formigone di turno. Il che, tuttavia, va evitato. Perché se c'è una cosa che i formigoni del mondo sembrano ignorare, o che pur non ignorandola si guardano bene dall'ammettere, è che nessuna responsabilità altrui li esonererà mai dai doveri che si sono assunti. Le colpe sono delle faccende strettamente individuali, e non esiste un mercato sul quale scambiarle, nel senso che ciascuno risponde delle puttanate proprie personali e non può pretendere di esserne esonerato sulla base di quelle altrui. Il politico accusato di rubare, per fare un esempio a caso, non può cavarsela dicendo che tanto lo fanno tutti. Ci ha provato il povero Craxi e vedete che fine ha fatto. E per quanto Formigoni possa parlare di caminetti che fumano, di lucine rosse che brillano invano nel buio, finché continuerà a far tagliare boschi per costruire grattacieli e a limitare il blocco del traffico a quelle poche domeniche in cui non dà fastidio a nessuno, dalle sue responsabilità di inquinatore supremo non potrà certo sperare di essere assolto. Ahimè. Ahimè, sullo stesso numero di Repubblica in cui leggo l'appello del Pio Governatore, che è quello di giovedì 19, nelle pagine milanesi, trovo un articolo del nostro amico Paolo Utter, che in sostanza gli dà ragione, salvo il fatto che a suo avviso gli appelli non bastano e che nulla giova ai comportamenti virtuosi quanto la presenza di regole stabilite e controllate con violazioni sanzionate. come a dire che se non si impone qualche buona multa ai riottosi, è inutile sperare che nel corpo sociale nasca spontaneamente qualsiasi virtù. Che è il punto di vista, mi sembra, tipico di una sinistra giustizialista e penitenziaria, che crede nella coazione almeno quanto dovrebbe aver fiducia nell'organizzazione razionale della società. La stessa sinistra, per intenderci, che invoca il braccio severo della legge come strumento principe di sanatoria sociale, e infatti in questi giorni esulta perché il buon presidente che sta sul colle ha cassato una legge che a me sembrava personalmente una delle poche ragionevoli prodotte da questo governo, quella dell'appello, no? dell'appello in caso d'assoluzione, ma aveva il grave difetto da svantaggiare in qualche modo la difesa nei processi penali, è cosa che non bisogna mai fare, no? Ma visto che questa è materia di ieri e non ho avuto modo di rifletterci, converrà ritornarci su una delle prossime volte. Per ora non dimentichiamo il maglione e ringraziamo gli dèi, perché ogni volta che saliamo in auto per un percorso breve o avviciniamo le palme intirizzite alle fiamme del caminetto nostro altrui, l'unica punizione che ci tocca per ora è il senso di colpa.